Liberato con un blitz il centrocampista nigeriano Obodo. Se qualcuno invece vuole rapire Ballotelli per un mese, glielo diamo gratis.